Ad alta voce. Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo di John Reed. Traduzione di Barbara Gambaccini. Capitolo quinto. All'opera. Giovedì 8 novembre. Il sole si levò su una città in preda all'eccitazione e allo smarrimento, su una nazione appena uscita da un'impressionante tempesta. In un'atmosfera di calma apparente, centinaia di migliaia di persone si alzarono di buon'ora per recarsi al lavoro. Il traffico scorreva rapido, negozi e ristoranti levavano le saracinesche, i teatri si preparavano ad allestire le loro rappresentazioni e un'esposizione d'arte venne annunciata come imminente. La vita quotidiana dunque pareva perpetrare il suo usuale scandire e perfino la guerra proseguiva ininterrotta. Nulla è più stupefacente dell'attaccamento alle consuetudini della società che, anche qualora si verifichino le peggiori catastrofi, non cessa mai di soddisfare le proprie necessità. Circolava voce che Kerensky, ottenuto l'appoggio del fronte, si stesse dirigendo con un grosso esercito verso la capitale. Nella immensa sala Nicolai, dove mi recai quello stesso pomeriggio, la Duma sedeva in permanenza, raccogliendo a sé tutte le forze dell'opposizione. Al mio arrivo l'ex sindaco Schreider stava riferendo la sua visita della notte precedente a Smolny per protestare in rappresentanza del governo municipale autonomo. La Duma, il solo potere legale esistente nella capitale, eletta col suffragio diretto e segreto, non riconosce il nuovo potere, aveva dichiarato a Trotsky, il quale gli avrebbe risposto: la Costituzione stessa fornisce il rimedio, sciogliere la Duma e indire nuove elezioni. Il resoconto di tale dichiarazione fu accolto nella sala da esclamazioni di rabbia. In attesa della riunione del congresso, prevista per l'una, la grande sala per le riunioni era traboccante di persone, ma i membri del presidium alle 19 non si erano ancora presentati. I bolscevichi e la sinistra socialista rivoluzionaria rimanevano chiusi nelle loro sale. Durante tutto il pomeriggio Lenin e Trotsky si erano dovuti opporre a coloro che suggerivano l'accettazione di compromessi. Molti sostenevano infatti la necessità di fare concessioni per costituire un governo di coalizione socialista. «Non possiamo resistere da soli», gridavano. «I nostri nemici sono troppi. Non abbiamo gli uomini necessari. Saremo isolati e tutto avrà fine». Così parlavano Kamenev, Ryazanov e altri. Ma Lenin, con Trotsky al fianco, rimase fermo sulle sue posizioni. «Quelli che vogliono un compromesso accettino il nostro programma e noi li accoglieremo. Non cederemo di un centimetro. Se vi sono qui dei compagni che non hanno il coraggio e la volontà di osare quanto noi osiamo, vadano a raggiungere poltroni e conciliatori. Finché avremo il sostegno degli operai e dei soldati, noi andremo avanti». Erano esattamente le 8:40 quando una tempesta di applausi annunciò l'ingresso del presidium con Lenin in testa. Piccolo di statura, tarchiato, una grande testa convessa e pelata, incastonata tra le spalle, gli occhi piccoli, il naso camuso, la bocca larga e generosa, il mento pesante, indossava un vestito logoro e pantaloni troppo lunghi. Pur non rispecchiando fisicamente quello che nell'immaginario collettivo doveva essere il leader idolatrato dalla folla, egli fu amato e venerato come pochi nella storia. Era in realtà un insolito capo popolare, il cui potere si basava unicamente sulla sua intelligenza. Non era brillante né spiritoso, bensì intransigente e libero da pregiudizi. Questo il suo potere: spiegare le idee più complesse e i concetti più profondi in termini semplici, analizzando concretamente ogni situazione con una grande audacia intellettuale. Kamenev diede lettura del rapporto sull'attività del Comitato Militare Rivoluzionario. Abolizione della pena di morte nell'esercito, ripristino della libertà di propaganda, scarcerazione dei prigionieri politici, disposizione di arresto per Kerensky e confisca delle provviste di viveri dei magazzini privati. Seguirono altri oratori. Un delegato dei minatori del bacino del Danietz domandò al congresso di prendere provvedimenti contro Kaledin, giacché costui poteva ostacolare il rifornimento di carbone e viveri alla capitale. Parecchi soldati sopraggiunti dal fronte portarono il saluto entusiasta dei loro reggimenti. Infine si levò Lenin. Afferrato il parapetto della tribuna, egli rivolse lo sguardo sugli astanti, apparentemente insensibile all'immensa e prolungata ovazione. Adesso è giunto il momento di costruire l'ordine socialista. Di nuovo la sala si scatenò. In primo luogo, occorre prendere provvedimenti ben precisi per realizzare la pace. Intendiamo proporla a tutti i popoli dei paesi belligeranti sulla base delle condizioni sovietiche. Nessuna annessione, nessuna indennità, diritto dei popoli di autogovernarsi. Nello stesso tempo, come promesso, pubblicheremo e ripudieremo i trattati segreti. La questione della guerra e della pace è talmente chiara che credo di potervi ora leggere, senz'altro preambolo, il progetto di proclama ai popoli di tutti i paesi belligeranti. La bocca larga, che sembrava sorridere, si spalancava quando egli parlava. La voce rauca, ma non spiacevole, pareva indurita da anni di discorsi. Scorreva monotona ed eguale e si aveva l'impressione che potesse proseguire in eterno. Quando voleva sottolineare un'idea, senza avvalersi di alcuna gesticolazione, si limitava a curvarsi leggermente in avanti. Innanzi, un migliaio di volti semplici, tutti tesi verso di lui, pervasi da una profonda adorazione. Proclama ai popoli e ai governi di tutti i paesi belligeranti. Il governo operaio e contadino, costituitosi in seguito alla rivoluzione del 6-7 novembre, è basato sui soviet dei deputati operai, soldati e contadini. Propone a tutti i popoli belligeranti, nonché ai loro governi, di intraprendere immediatamente le trattative per una pace giusta e democratica. Questa pace, ardentemente bramata dall'immensa maggioranza delle classi lavoratrici esauste a causa della guerra, questa pace che operai e contadini russi, rovesciata l'autocrazia zarista, seguitano a esigere, dovrà essere immediata, senza annessioni, ovvero senza confisca di territori stranieri e unioni forzate di popolazioni straniere, e senza indennità. Il governo della Russia propone a tutti i popoli contendenti di concludere immediatamente un tale armistizio e si dichiara pronto a procedere nell'immediato nella predisposizione di tutti i provvedimenti necessari in attesa che tutte le condizioni di pace siano ratificate dalle assemblee autorizzate delle diverse nazioni. Per annessione o conquista di territori stranieri, il governo intende, secondo la concezione del diritto della democrazia in genere e della classe operaia in particolare, ogni inglobamento di un popolo poco numeroso e debole a uno Stato grande e potente in cui non vi sia l'esplicita e libera manifestazione di consenso da parte del primo. Tutto ciò, a prescindere dal momento in cui tale atto di forza sia stato compiuto, dal grado di civiltà del popolo annesso e dalla sua appartenenza all'Europa o ai paesi d'oltremare. Laddove un popolo venga costretto con la forza entro le frontiere di uno Stato, laddove, malgrado il desiderio da esso espresso attraverso stampa, comizi popolari, delibere dei partiti politici o altresì per mezzo di sommosse e sollevazioni contro l'oppressione nazionalista, laddove questo popolo non ottenga il diritto di scegliere la propria forma di governo con votazione libera, e dunque senza alcuna coercizione e successivamente al ritiro di tutte le forze militari dello Stato reo dell'Unione imposta, questa forzatura costituisce un'annessione, una conquista e dunque un atto di violenza. Il governo reputa il protrarsi di questa guerra per il disdicevole scopo di risolvere la questione della spartizione delle nazioni più deboli tra quelle più ricche e potenti un vero e proprio crimine contro l'umanità. Esso proclama perciò con solennità la sua risoluzione a firmare immediatamente la pace alle condizioni sopra enunciate, valide per tutte le nazioni senza alcuna esclusione, che porrà definitivamente fine al conflitto. Il governo dichiara altresì di non avere intenzione alcuna di dare a tali condizioni un carattere di ultimatum. Al contrario, esso è disposto a esaminare ulteriori e differenti proposte purché queste siano presentate con la massima urgenza ed esposte con la massima chiarezza, senza dare adito a molteplici interpretazioni. Il governo abolisce qualsiasi forma di diplomazia segreta ed esprime innanzi all'intero popolo la sua ferma intenzione di condurre tutte le trattative alla luce del sole. Di conseguenza, esso procederà immediatamente alla pubblicazione integrale di tutti i trattati segreti ratificati o conclusi dal precedente governo capitalista a partire dal mese di marzo fino al 7 novembre 1917. L'attuale governo denuncia, senza riserva alcuna, ogni clausola di tali trattati, i quali avevano il solo scopo di procurare vantaggi e privilegi agli agrari e ai capitalisti russi. Proponendo a tutti i governi e a tutti i popoli di intraprendere pubbliche trattative, il governo si dichiara pronto a trattare sia telegraficamente, sia per iscritto, sia tramite colloqui con i rappresentanti dei diversi paesi, sia in un'unica conferenza che riunisca i vari delegati. Per facilitare questi negoziati, il governo invierà i propri diplomatici anche nei paesi neutrali. Si prevede altresì la necessità, al fine di concludere il patto, di firmare un armistizio immediato, non inferiore a 3 mesi, tra i governi e i popoli dei paesi belligeranti. Tale periodo sarà sufficiente non solo a permettere il compimento delle suddette trattative, ma a garantire la convocazione di assemblee competenti per la ratifica definitiva della pace. Il governo provvisorio operaio e contadino della Russia si rivolge in particolare agli operai delle 3 nazioni più progredite dell'umanità e ai 3 stati maggiori impegnati nel conflitto, Inghilterra, Francia e Germania. Sono stati gli operai di questi paesi a rendere i più grandi servizi alla causa del progresso e del socialismo. I magnifici esempi del movimento cartista in Inghilterra, delle rivoluzioni di importanza mondiale portate avanti dal proletariato francese e infine in Germania dell'intrepida lotta contro le leggi eccezionali e della graduale creazione delle organizzazioni di massa del proletariato tedesco, la cui costanza e disciplina può servire di esempio ai lavoratori di tutto il mondo, ebbene, tutti questi esempi dell'eroismo proletario, questi monumenti della storia costituiscono, secondo tutti noi, la garanzia effettiva del fatto che gli operai di questi paesi reputeranno loro dovere liberare l'umanità dagli orrori e dagli effetti della guerra, aiutandoci, mediante un'azione generale, decisa e incredibilmente vigorosa, a concludere vittoriosamente la causa del popolo e a liberare da schiavitù e sfruttamento le masse oppresse. Placata la tempesta di applausi, Lenin riprese: «Noi proponiamo al Congresso di ratificare questa dichiarazione. La indirizziamo ai governi come ai popoli, perché se ci rivolgessimo solo a questi ultimi potremmo ritardare la conclusione della pace. Le condizioni di pace elaborate durante il periodo dell'armistizio dovranno essere ratificate dall'Assemblea Costituente. Nel fissare la durata dell'armistizio a 3 mesi, desideriamo dare ai popoli una tregua più lunga possibile dopo tale cruento sterminio e permettere loro di eleggere i propri rappresentanti. Non illudiamoci. Questa proposta di pace si scontrerà senz'altro contro l'opposizione dei governi imperialisti, ma siamo fiduciosi che la rivoluzione russa possa scoppiare al più presto in tutti i paesi belligeranti. Per questo ci rivolgiamo in modo particolare agli operai di Francia, Inghilterra e Germania. La rivoluzione del 6 e 7 novembre, concluse Lenin, ha annunciato l'era della rivoluzione sociale, il movimento operaio nel nome della pace e del socialismo vincerà, compiendo così il suo destino. Quelle parole esprimevano nel contempo serenità e potere, una combinazione in grado di scuotere le anime nel profondo. Nell'ascoltare Lenin si poteva ben comprendere perché la folla confidasse tanto in lui. Erano esattamente le 10:35 quando Kamenev domandò a coloro che approvavano il proclama di levare in alto le proprie tessere. Un solo delegato osò levare la mano contro, ma il clamore delle proteste che gli scoppiarono attorno lo indusse ad abbassarla celermente. Era l'unanimità. Mossi da un comune impulso, ci trovammo improvvisamente tutti in piedi, unendo le nostre voci all'unisono nel lento crescendo dell'Internazionale. Un anziano soldato brizzolato singhiozzava come un fanciullo. Alessandra Kollontai tratteneva a stento le lacrime. Il canto si levava possente attraverso la sala, scuotendo porte e finestre e disperdendosi nel cielo sereno. «La guerra è finita! La guerra è finita!» gridò accanto a me un giovane operaio, il volto ebbro di felicità. Poi, allorché il canto fu estinto e un silenzio imbarazzante cadde sui presenti, qualcuno gridò: «Compagni, ricordatevi di quelli che sono morti per la libertà!» Intonammo la marcia funebre, quel canto maestoso, malinconico e glorioso al tempo stesso, così russo, così commovente. L'Internazionale era una musica straniera. La marcia funebre sembrava l'anima stessa del popolo, i cui rappresentanti riuniti in quel salone si proponevano di edificare con le loro indistinte visioni una nuova Russia o forse un nuovo mondo. Siete caduti nella lotta fatale per l'amore e l'onore del popolo. Tutto voi deste per esso, la vostra vita e la vostra libertà. Soffriste nelle prigioni umide, conosceste l'esilio e le pesanti catene. Addio, fratelli, voi seguiste una degna strada. L'ora si avvicina in cui il popolo si desterà grande, potente e libero. Addio, fratelli.